Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Mattino. Ma stati generali sono passati inosservati, boh, non si sa niente, nessuno ne parla più. Secondo voi, con l'Europa che dovrebbe darci dei soldi a fondo per tutto, con i paesi che oppongono resistenza, ora noi dobbiamo pensare in metterci in un'avvertenza contro i Benetton che potrebbero chiederci 7 miliardi? Buongiorno Spezia, mi sa dire le decine di migliaia di morti quanto incidono sulla popolazione totale e sulla quantità di morti annuale classica media di una nazione come l'Italia? Allora, andiamo con ordine. Gli stati generali... sì... hanno prodotto pensiero... Vedremo se poi questo pensiero diventerà azione. Tra l'altro mi è venuto in mente l'altro giorno questo. Ma i famosi assistenti civici, che abbiamo parlato per una settimana, quelli che dovevano contribuire al distanziamento sociale e via, ma dove sono finiti? La questione Benetton, adesso ci arriviamo e sarà un pezzo ovviamente ampio della nostra rassegna stampa. E torneremo a parlarne poi alle 8:20. È uno degli argomenti di giornata insieme all'incontro tra Giuseppe Conte e Angela Merkel. Sulla questione della mortalità, e questo è importante, io suggerisco a tutti gli ascoltatori che hanno dei dubbi su quante vittime abbia fatto Covid-19... suggerisco a questi ascoltatori di andare sul sito dell'Istat, che insieme all'Istituto Superiore di Sanità produce uno studio, sta producendo ogni mese uno studio dedicato esattamente a questo. L'ultimo è del 1° di luglio e indica un eccesso di mortalità e quindi una maggiore mortalità del... un aumento di mortalità del 50% a livello nazionale, parliamo di livello nazionale, se considerate che si è concentrato solamente in 3-4 province, il dato è particolarmente impressionante, del 50% in marzo, del 36% in aprile e poi a maggio siamo tornati su livelli di normalità. Quindi... senza fare dell'allarmismo, piantiamola dall'altra parte di parlare di terrorismo sanitario, perché non è terrorismo sanitario dire che di questo virus si può morire e si può morire male, perché ci sono i racconti, cioè ci sono i dati e ci sono i racconti delle persone, no? E questo non vuol dire essere d'accordo col prolungamento dello stato di emergenza per continuare a far approvare decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri non vuol dire alcun sostegno politico a nessuno, vuol dire semplicemente che di questo virus nei mesi di marzo e di aprile ci sono, per questo virus ci sono delle persone che sono morte e sono morte nell'ordine delle decine di migliaia. E quindi bisogna prestare attenzione. Siamo più preparati adesso? Sì, siamo più preparati. Siamo più attenti? Sì, siamo più attenti. Il sistema sanitario è messo meglio? Sì, il sistema sanitario è messo meglio. Però non bisogna abbassare la guardia, punto. Ma non è che abbiamo detto sta cosa pazzesca, è una banalità. È una banalità. Non abbassiamo la guardia, punto. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:23 minuti di martedì 14 luglio ed è la parte dedicata alla rassegna stampa con giornali divisi in linea di massima in due. Chi apre con l'incontro tra Angela Merkel e Giuseppe Conte, tra i quali resta la distanza, scrive il Corriere della Sera. che vanno avanti piano, secondo la stampa, con un Giuseppe Conte che chiede l'elemosina, secondo Libero. E altri giornali invece che si dedicano alla questione autostrade. Caselli in aria è il titolo del Manifesto. Carina, carina, sempre carino il Manifesto. Autostrade, la trincea estera è il titolo del Messaggero. United Dollars of Benetton è il titolo del Fatto Quotidiano. La pacchia è finita, scrive. E a proposito di autostrade, ci dice La Verità che Conte ci è già costato 18 miliardi. Vengono al pettine i nodi dei continui tira e molla su autostrade, 2 anni di vuoti proclami, ex Ilva, autogol e fuga degli indiani, e all'Italia. Il prezzo per l'Italia è molto salato. Il Sole 24 Ore presenta la lista nera di BlackRock, il gruppo americano di risparmio gestito più grande al mondo, che ha individuato quest'anno 244 aziende che stanno compiendo progressi insufficienti nell'integrare il rischio climatico nei modelli di business, e quindi fa una sorta di lista nera. Il giornale ci fa sapere che sulle tasse non ci sarà nessun rinvio, il 20 luglio sarà stangata, bisognerà versare IRES e IRPEF, anche se si sta ragionando su un rinvio, però non è ancora certo. La Repubblica ci dice che l'Europa indica che non ci dovranno più essere lockdown, virus mai più lockdown. E fa un'apertura interessante Avvenire, che fa sempre delle scelte un po' diverse dagli altri. È il peso del vuoto, sono i dati Istat 2019 sulle nascite, giù di 20.000, un record negativo, e aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero, saliti a oltre 180.000, quindi sul bilancio demografico. Iniziamo quindi la rassegna stampa, come sempre, con qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che domina le pagine dei quotidiani. Ci andremo, come dicevo, sulla vicenda autostrade, andremo sulla questione del recovery fund, parleremo di migranti. E ci sarà anche spazio per un po' di politica, perché ci sono un po' di quotidiani che si concentrano sullo strano ruolo che sta svolgendo Luigi Di Maio in questa fase. Ci arriveremo tra un attimo anche a questo. E però fatemi iniziare da Roma, con le preoccupazioni del Messaggero, che a pagina 17, con un richiamo in prima, ci racconta che ancora una volta il tema dell'immondizia, il tema della spazzatura romana rischia di essere al centro di quest'estate. E perché? Perché è stato sequestrato un impianto AMA. L'inchiesta era partita dai miasmi, raccontano Francesco Pacifico e Giuseppe Scarpa, dalla puzza prodotta dall'impianto di lavorazione della spazzatura, denunciati in vari esposti dai residenti. Ma i magistrati sono andati ben oltre, convinti che il TMB di Rocca Cencia, nella parte est di Roma, non sia strutturalmente idoneo a trattare una parte di rifiuti. L'organico che lavori più materiale di quanto previsto e che non garantisca la totale sicurezza dei suoi dipendenti. Nuova tegola giudiziaria per AMA, dunque il TMB di Rocca Cencia, cioè l'impianto che separa nel rifiuto indifferenziato la parte secca da quella organica, è stato sequestrato. Ho da chiarire, è stato sequestrato, ma per il momento resta aperto. La parte sequestrata è quella relativa alla stabilizzazione, alla messa in sicurezza della parte umida. Appunto, continuerà a funzionare, ma sarà il commissario giudiziario Luigi Palumbo a decidere se interrompere le lavorazioni per fare le manutenzioni, come chiede la procura. Questa inchiesta, raccontano Pacifico e Scarpa, può avere forti ripercussioni per AMA e per la già problematica gestione del ciclo dei rifiuti romani, intanto perché quello di Rocca Cencia è l'unico TMB funzionante di proprietà dell'azienda, e poi perché la parte organica rappresenta il 30% delle 700 tonnellate di spazzatura indifferenziata che ogni giorno vengono mandate all'impianto di Roma Est per essere trattate. Dunque potete ben immaginare che cosa succede se questo impianto si ferma. Dove nota Mauro Evangelisti di taglio basso, si mette in evidenza il fatto che alle promesse dell'amministrazione Raggi sul fronte dei rifiuti, non sono corrisposti i fatti. Nel 2019 ci fu l'estate dei miasmi, un anno dopo Roma spera di evitare il sequel, ma il sequestro rischia di mandare di nuovo al tappeto un sistema di smaltimento dei rifiuti che, dopo aver toccato il fondo, continua senza sosta a scavare. Per darvi la misura di tutto questo, basti un numero, perché sennò poi dite, ci scrivete, siete contro l'amministrazione Raggi. No, però il dato è: la differenziata resta attorno al 44-45%. Nel 2017 i grafici che venivano mostrati promettevano un fenomenale 65% di questi tempi. Il porta a porta sta funzionando scarsamente, stanno tornando i cassonetti e i dati sono questi per quanto riguarda la capitale. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, se questo impianto verrà fermato, se ci sarà veramente una nuova crisi. Fatto sta che, come sempre diciamo, Roma dimostra una fragilità sul fronte dei rifiuti che è particolarmente forte, per cui basta che salti un anello della catena e rischia di saltare tutto. C'è la questione dei migranti, che resta forte, resta in primo piano. Pescherei intanto dal Corriere della Sera, a pagina 8, dove Virginia Piccolillo ci racconta un po' come sta cercando di lavorare la ministra dell'Interno, la Morgese, e soprattutto quali sono le preoccupazioni a fronte di questi continui nuovi sbarchi. Abbiamo avuto un aumento degli sbarchi autonomi di migranti, non delle ONG, quindi difficilmente controllabili. All'indomani dei disordini in Calabria contro l'accoglienza dei migranti risultati positivi al Covid e un fine settimana che ha visto l'arrivo di oltre 1000 clandestini a Lampedusa, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ammette la difficoltà di governare un fenomeno che sta allarmando la popolazione: l'arrivo di immigrati da paesi a forte rischio epidemia. La soluzione immediata individuata è il reperimento di navi quarantena. La prima gara è andata deserta. O si risolverà con una procedura accelerata in 2 o 3 giorni o si passerà al piano B, individuando caserme dove trasferire i migranti. L'obiettivo, assicura Lamorgese, è non gravare sulle comunità. La ministra ha sentito anche Iole Santelli, la presidente della Calabria, cerchiamo di lavorare insieme su questo fronte. E qua si riapre un tema, ne parlavamo poco fa, è la questione delle partenze non tanto dalla Libia nella fattispecie, ma da altri paesi. Quindi il flusso è ovviamente più ridotto, ma crea preoccupazioni, come avete visto, dal punto di vista sanitario. Ci torniamo tra un attimo sul tema dell'immigrazione, perché c'è tutta la questione dei bengalesi, che è rimasta un po' la sospesa, dei bengalesi arrivati a Roma in cerca di cure, e anche la questione delle regolarizzazioni dei migranti, la sanatoria che però sta funzionando solamente per le colf. Una pausa. I numeri sono governabili, non c'è tutta questa emergenza per i clandestini. Intanto Lampedusa sta scoppiando, un'isola che, se solo parte un contagiato all'interno dell'isola, voi non sapete neanche minimamente cos'è Lampedusa e quello che può succedere, visto gli ospedali da raggiungere, ma non c'è l'emergenza. Perché non dite che ai tempi dei governi Berlusconi e Lega gli immigrati erano circa 100.000 all'anno? Adesso si parla di 8.000 in 6 mesi, cioè non ci sono le proporzioni. Dai su, non te la prendere se ti hanno detto che fai allarmismo, terrorismo, non te la prendere, basta, abbiamo capito, dai su. Non è che negando gli eventi si esce dal virus. Mi sembra che il negazionismo stia prendendo una bruttissima piega qua nel nostro paese. Tutti pappalardo, improvvisamente, tutti col generale pappalardo. Sulla questione dei migranti, sì, io penso che 8.000 persone che arrivano in 6 mesi sulle nostre coste sì, sia un numero gestibile. Io temo che qua quello su cui continuiamo a non ragionare, uno può pensarla come vuole, sia sui decreti sicurezza, sia sugli arrivi, non entro in questo, tranne appunto nel dire che è un numero gestibile 8.000 persone, è gestibile ovviamente se tu hai un controllo del tuo territorio, dato che le stime parlano di 600.000 irregolari sul nostro territorio, a me pare che il problema non sono gli 8.000 che arrivano tra Lampedusa e la Calabria, che poi vengono ridistribuiti nel paese in minima parte tramite l'accordo di Malta in giro per l'Europa. Mi sembra che il problema sia il fatto che tu hai 600.000 persone sul tuo territorio che fondamentalmente non sai cosa fanno, oppure sai perfettamente cosa fanno, ma non riesci a fare i provvedimenti, ad attuare, a varare i provvedimenti adeguati per capire esattamente in che condizioni sono e come gestire questa questione, un tema di controllo del territorio. A dimostrazione di tutto questo c'è, vi porto questo pezzo del Fatto Quotidiano, a pagina 17 siamo. La sanatoria per i braccianti regolarizza le colf per il 90%. E il tema è la sanatoria, quella della quale tanto abbiamo discusso e tanto abbiamo parlato, sulla quale tanto c'è stato scontro politico anche all'interno della maggioranza. Le ricordate le lacrime della ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova? Ebbene, il pezzo di Paolo Frosina e Roberto Rotunno inizia così. Ho chiesto a 5 imprenditori, con un virgolettato, è un racconto, ho chiesto a 5 imprenditori di mettermi in regola, offrendo di pagare io i 500 euro della pratica. Nessuno ha detto di sì. È la storia di uno dei tanti braccianti del Foggiano che descrive il fallimento della sanatoria contenuta nel decreto rilancio, annunciata da una commossa Teresa Bellanova come la svolta per liberare dal lavoro nero gli invisibili nei campi. In realtà è proprio per loro che non sembra funzionare affatto. Al 9 luglio, a 40 giorni dall'avvio della procedura, erano solo 93.300 le richieste completate, di cui appena 11.600 per il lavoro agricolo. Le altre riguardano colf e badanti. L'obiettivo di 220.000 regolarizzazioni sembra un miraggio, per non parlare della famosa stima di 600.000 interessati attorno ai quali si è concentrato per mesi il dibattito politico. Di più, secondo uno studio della Fondazione Leone Moressa, le spese per la sanatoria, 75 milioni, diventano sostenibili per l'erario solo sopra le 200.000 emersioni. Sotto questa quota è lo Stato che ci perde. Per scongiurare l'ipotesi, il termine per le domande è stato posticipato al 15 agosto, dapprima era il 15 luglio. A parlare con gli interessati però l'intoppo sembra chiaro. I padroni, aperta virgolette, non regolarizzano perché nonostante tutto non conviene. Prendiamo Abdul, che a 33 anni viene dalla Sierra Leone. Nel 2018 scade il suo permesso di soggiorno. Da allora continua a lavorare nei campi pugliesi, ma in nero. Raccoglie asparagi, pomodori, uva, olive, 10 ore al giorno per 30 euro. Quando ha saputo della sanatoria è corso allo sportello della Fly CGIL, lo stesso sindacato nel quale la Bellanova ha militato per anni, ma nessuna delle tante aziende per le quali ha lavorato ha voluto saperne di farlo emergere. Mi dicono di no perché sarebbero costretti a farmi un contratto, a pagarmi uno stipendio giusto. E dunque la sanatoria per i braccianti in sostanza non funziona. Cosa ancora da questa giornata? Sicuramente direi la questione autostrade, ovviamente. Qua abbiamo, prenderei la pagina del Sole 24 Ore, pagina 3, dove in sostanza è riassunto tutto, perché da una parte c'è tutta la questione politica, con il pezzo di Emilia Patta che ci racconta della resa nei conti nel governo, dell'arrivo di un commissario in caso di revoca della concessione, di Conte che dice, lo abbiamo fatto sentire poco fa, parla di una decisione che deve coinvolgere tutto l'esecutivo. Dall'altra parte ci sono le conseguenze economiche di un'eventuale revoca e di un rischio di default, ossia di fallimento appunto dell'azienda. E qua Laura Galvagni scende nel dettaglio, avete sentito un passaggio anche nel servizio, nel nostro GR24, però qua abbiamo anche modo di approfondire per dare la misura di quello che si rischia. Si tratta complessivamente di di rischi per 19 miliardi sono i debiti. La revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, oltre a bloccare gli investimenti sulla rete italiana, avrebbe un altro effetto altrettanto dirompente: mandare in default l'azienda, il che tradotto vorrebbe dire rendere non esigibili 10 miliardi di debito in capo ad Aspi e altri 9 miliardi riferibili alla controllante Atlantia. Coinvolto c'è un pezzo del mondo bancario, perché per esempio Unicredit vedrebbe messo a repentaglio 1 miliardo di euro, Intesa 800 milioni, c'è coinvolta anche BNP Paribas, e poi ci sono anche i singoli e i piccoli risparmiatori, 17.000 risparmiatori che hanno sottoscritto un bond della compagnia da 750 milioni di euro e che a questo punto dunque si troverebbero con in mano le obbligazioni non più esigibili, perché sono le obbligazioni di una società in default. Sempre dal Sole 24 Ore giova segnalare, a proposito di investimenti ed infrastrutture, con un abbraccio caro come sempre ai nostri amici che stanno percorrendo le strade della Liguria, che anche oggi, come ci hanno raccontato i colleghi, tra poco ci racconteranno i colleghi del traffico, hanno avuto i loro problemi soprattutto sulla A7 oggi, ma non solo, come ci raccontano Maurizio Caprino e Marco Morino sempre sul Sole 24 Ore a pagina 6, il caos ligure ha provocato danni per 1 miliardo e sono stati bloccati 30.000 camion al giorno. L'impatto sulla logistica, guardate, è devastante. Il caso Liguria sta paralizzando, raccontano, l'intera economia del nord-ovest. Due dati su tutti calcolati da Confcommercio e Conftrasporto: il 50% della logistica italiana passa sul territorio ligure e un'ora di ritardo in più degli oltre 30.000 camion che ogni giorno attraversano il nodo di Genova costa alle imprese circa 2 milioni di euro, perché è un costo in termini di carburante, usura del mezzo, costo dell'autista, tempi per l'andata e il ritorno, autista che impiega più tempo per fare un viaggio e rischia di arrivare tardi per farne un altro. Come capite, il problema è a cascata e si riflette su tutto il sistema economico. Traffico. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel, Ford Transit Hybrid. Meno consumi, più attenzione per l'ambiente, stessa capacità di carico. Tuo a 230 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 454. Veicoli commerciali Ford, da sempre, al fianco di chi lavora. Mattino. Oh no, non ho sottoscritto obbligazioni né di Atlantia, né, lo chiede un ascoltatore, full disclosure, non ho prodotti finanziari, ok? Quindi non c'è problema. È semplicemente una segnalazione, sapete, nel momento nel quale un governo deve prendere una decisione, deve tener conto di tutto, deve tener conto anche del fatto che si troverà 17.000 persone che forse potrebbero essere da risarcire. Questo non vuol dire che poi non possa decidere sulla revoca, può anche decidere sulla revoca. Fatemi dare una bottarella di politica. Allora, ieri abbiamo scherzato un po', l'avete sentito con Paolo Mieli, sulle parole di Luigi Di Maio su Mario Draghi, sulle quali poi son fatte tante ironie. Mi ha fatto un'ottima impressione dopo l'incontro con Mario Draghi. In realtà l'intervista di ieri sul Foglio a Daniele Raineri era un'intervista molto più ampia, che teneva dentro tutti i dossier esteri. E soprattutto vi voglio segnalare che qualcosa si sta muovendo intorno all'ex leader del Movimento 5 Stelle, adesso ministro degli esteri, perché se guardiamo ai pezzi di Tommaso Labate sul Corriere della Sera e Marco Travaglio, il commento di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, beh, appunto qualcosa si muove. A partire da queste parole, sono delle parole tra virgolette che cita Tommaso Labate a pagina 17 del Corriere della Sera, e che però messe in bocca a Luigi Di Maio fanno una certa impressione. Io voglio fare il partito dei moderati, ripete all'infinito da settimane, proseguendo in quell'opera di riposizionamento e di autorevisionismo che lo fa assomigliare giorno dopo giorno a poco meno di un lontano parente del vice premier giallo-verde che l'anno scorso volava in Francia per incontrare i leader dei gilet gialli in compagnia di Alessandro Di Battista. Adesso i suoi interlocutori sono altri, come Mario Draghi, incontrato in gran segreto qualche settimana fa, o anche la Merkel, incrociata nelle vesti di ministro degli esteri alla conferenza di Berlino. Ecco, il lavoro di Luigi Di Maio oggi, racconta Tommaso Labate, è quello di costruire un partito dei moderati, trasformare il suo partito, a prescindere dalla ragione sociale, Movimento 5 Stelle, in una forza in grado di catalizzare l'elettorato oggi conteso da Berlusconi, Calenda e anche dal Partito Democratico. È chiaro che se gli obiettivi sono questi, c'è un'ambizione, direi quasi da premier, che forse è quella che si coglie, che sembra cogliere Marco Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, dove inizia raccontando e dettagliando un po' quelli che sono gli spunti arrivati dall'intervista che lo stesso Conte ha rilasciato ieri al Fatto Quotidiano. E elogiando il presidente del Consiglio Travaglio, e poi entra nel dettaglio su quello che gli sembra che non vada, ossia un Movimento 5 Stelle che non sembra seguire il presidente del Consiglio, e soprattutto su un Luigi Di Maio del quale colpisce il silenzio, scrive Travaglio. Un conto è parlare poco e soprattutto di affari internazionali, un altro è incontrare Mario Draghi e Gianni Letta senza spiegare il perché. Che c'entra l'ex governatore Banca Italia ed ex presidente BCE con la Farnesina? E che ci azzecca il vecchio lobbista del partito Mediaset privo di incarichi politici e istituzionali? Lo sanno anche i bambini scemi che Draghi è suo malgrado il candidato dei poteri forti per il governo di larghe imprese che nei loro sogni dovrebbe rovesciare il Conte 2, e che Letta Senior è l'emissario del pregiudicato B, delle sue aziende, delle sue trame per rientrare in gioco, farsi gli affari suoi nelle TV e nella fibra e magari scegliersi pure gli arbitri dell'AGCOM. Come intuite, gli elementi, almeno stando a quel che leggiamo, poi chiaramente sono in retroscena, tutto quello che volete, insomma, gli elementi di un, forse di una lotta di potere tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte ci sono ancora. Sull'incontro di ieri proprio tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trovate colloqui di Conte con i giornali un po' dappertutto, con qua peschiamo La Stampa, no a compromessi al ribasso, noi isolati siamo 23 contro 4, riferendosi ai cosiddetti 4 paesi frugali, quelli che non vogliono l'accordo, lo vogliono appunto solo con certi limiti. Su questo vi segnalo tra l'altro il pezzo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, il quale dice: attenzione, perché questo recovery fund presuppone delle condizioni, se volete che le condizioni siano stringenti, saranno stringenti per tutti, anche per l'Olanda, la quale viene raccomandato di smetterla con una politica fiscale troppo aggressiva, l'accusa di essere una sorta di paradiso fiscale. E questi sono, per così dire, i fronti principali di questa giornata. Vi voglio chiudere con cosa chiudiamo? Chiudiamo con un elemento di sport. C'è questa polemica che sta nascendo intorno alla riforma dello sport, quella voluta dal ministro Spadafora, il quale ieri si è lanciato in un attacco durissimo nei confronti di... ce l'abbiamo Carmelo Lauricella, Spadafora? Via. Credo che 12 anni siano un tempo non minimo, insomma, 12 anni sono tantissimi. Qui abbiamo presidenti che sono presidenti quando c'erano ancora le Torri Gemelli, quando c'era ancora la lira, ci sono presidenti dei mandati per i presidenti delle federazioni, e ieri c'è stato uno scontro al Calor Bianco con il presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo, che è presidente dal 1993, Luciano Rossi, ex senatore. E qua c'è un bel pezzo di Stefano Barigelli, il direttore della Gazzetta, che dice, insomma, va bene, però queste riforme andrebbero annunciate qualche mese prima per non farle arrivare ex abrupto. Il rinnovamento guidato è sempre meglio della rottamazione guidata. Pagina 25 della Gazzetta dello Sport, se vi incuriosisce l'argomento. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con Maria Latella, parleremo di autostrade, poi di Europa, dell'incontro tra Conte e Merkel, tra poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.